nasce l'uomo, ma nasce bambino, nasce l'anno, ma nasce caduto, ma nasce caduto. L'uomo bambino, l'anno caduto, nasce l'uomo, ma nasce bambino, nasce l'anno, ma nasce caduto. L'altro sorge dal tempo caduto, uno è sempre al cader più vicino, l'altro sorge dal tempo caduto. Nasce l'uomo, ma nasce bambino, nasce l'anno, ma nasce caduto, ma nasce caduto. L'uomo bambino, l'anno caduto, nasce l'uomo, ma nasce bambino, nasce l'anno, ma nasce caduto.